per esempio di documenti scritti che riguardavano entrambi Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, poiché c'erano le stesse rivendicazioni, c'erano gli stessi sintomi, indizi che riguardavano tutte e due le ragazze, e poi purtroppo tutte e due le ragazze avevano sicuramente dei collegamenti con persone che erano nel Vaticano, perché una era la cittadina vaticana Emanuela Orlandi, l'altra invece aveva dei rapporti con un uomo del Vaticano, ma non sapeva che aveva rapporti con questa persona. Mirella Gregori, per sua sfortuna, è una persona che non è riuscita mai a conquistare, diciamo, le prime pagine dei giornali dal punto di vista mediatico, e quindi che cosa succede? Che di questo non si parla quasi mai. Lei infatti già da subito, diciamo, ha ricordato come queste due vicende di due ragazze scomparse negli stessi mesi dovessero essere valutate insieme. Ecco, all'ipotesi che, diciamo, una traccia forte, se non la svolta della loro scomparsa, possa essere dall'altra parte dell'Atlantico, a Boston, che è la città in cui è esploso poi ben anni dopo lo scandalo pedofilia, era emerso anche già nelle vostre indagini? Boston sicuramente è venuto fuori, perché da Boston arrivavano delle lettere di ricatto rivolte contro il Papa. Boston è sicuramente una sede di ambasciate dell'est dell'Europa, quindi Boston non è soltanto una questione di pedofilia, ma è anche una questione di terrorismo internazionale. E quindi Boston sicuramente è importante, perché da quella località sono partite delle lettere che sono state inviate sicuramente dagli autori dei due sequestri e dei messaggi ricattatori contro il Papa. Ecco, sicuramente c'era infatti quel timbro di Cameron Station, appunto, a Boston, che oggi viene anche rivalutato e riletto, appunto, affiancando quel timbro di quelle lettere minatorie, ricattatorie, e anche di quei contatti che facevano presumere l'esistenza di una trattativa per la liberazione di Emanuela Orlandi, giusto? Esatto, il problema è questo, che io ho preparato per conto della famiglia Orlandi già tempo fa una lettera per Benedetto XVI, che in primo momento ho scritto al Giovanni Paolo II, che, diciamo, ha risposto a questa lettera pregandomi di continuare nella ricerca della verità. Una lettera molto garbata, nella quale lui riconosce che le notizie che io gli ho dato e che lui non aveva erano vere, tant'è che lui parlò di caso di sequestro di terrorismo internazionale. Ora, per quanto riguarda invece l'avvento di Benedetto XVI, io avevo chiesto a Benedetto XVI, a nome della famiglia, di considerare che questi fatti sono avvenuti contro il Vaticano, non contro la famiglia Orlandi, e quindi lui si doveva far carico di questa cosa, perché diciamo che la ragazza era cittadina vaticana, i rapitori non hanno mai voluto avere a che fare con la famiglia, tranne che nei primi 15 giorni, ma l'hanno fatto per fini, diciamo, tattici, cioè per cercare di guadagnare tempo per portare la ragazza fuori dall'Italia. Io parlo di Emanuela Orlandi. Certo, ecco. Certo. Ecco, questo è il punto fondamentale. Ecco, mi pare che ha ragione Pietro Orlandi e tutta la sua famiglia a chiedere un intervento del Vaticano, perché questo è un fatto che coinvolge direttamente il Vaticano, almeno come vittima di ricatti compiuti dai rapitori, capito? Quindi questi ricatti però significano che il Vaticano deve aiutare la famiglia e anche i suoi difensori. Credo che noi abbiamo diritto di essere aiutati a fare le indagini all'estero, cosa che non possiamo fare se non con l'aiuto di uno Stato, che non può essere lo Stato italiano, ma deve essere soprattutto lo Stato Vaticano, perché è quello più direttamente coinvolto, questo senza dubbio. Quindi vuol dire che nella vostra lettera, questa che risale già a tempo fa, perché ricordo che ne avevamo già parlato, ecco, la vostra richiesta di aiuto, di informazioni, di un dialogo non ha avuto ancora risposta da parte di Benedetto XVI. È stato un errore da parte loro, perché io gli ho mandato molti documenti da cui risulta chiaramente che la ragazza è stata oggetto di un attacco contro il Papa, come del resto lo stesso Papa ha riconosciuto Giovanni Paolo II, quindi non si capisce la diversità di comportamento tra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Benedetto XVI deve lasciare da parte i consigli sbagliati e deve riconoscere che questa ragazza è stata rapita contro il Vaticano e per ricattare il Vaticano, e quindi la famiglia non è in grado di fare nulla senza un aiuto, che riguarda anche la necessità di appelli che devono essere fatti agli stati che sicuramente sono coinvolti in questa cosa, cioè la Germania, la Turchia, la Francia, tutti i paesi in cui ci sono tracce del passaggio di Emanuele Orlandi. Vorrei dire che mi auguro che qualche persona veramente si passa la mano sulla coscienza e si leva quel magone che da anni che portano dentro, di dire la verità. O viva o non mi sento di dire morte, però bisogna dirlo. Dopo tanti anni perdonerei per sapere la verità di Emanuele. Maria Orlandi, la mamma di Emanuela, è convinta che la figlia sia da qualche parte nel mondo. Lei in disparte, i figli sempre in prima fila a sollevare l'attenzione sul caso, a chiedere collaborazione alla Santa Sede e risposte alla giustizia. La famiglia Orlandi è sicura, al di là della naturale e ovvia speranza, che la ragazza sia ancora viva. Il sogno che fece, che Emanuela la vide da lontano, dico: Emanuela, ma perché non torni a casa? Noi ti stiamo a aspettare. Allora lei è bellissima, con i capelli lunghi, sembra, lei portava i capelli lunghi così, e col libro, uguale come lei quando è stata portata via. Mi ha detto, dice: guarda mamma, c'è quel signore, dice, quello mi fa da guardia. Sapevano che ci doveva stare un rapimento, ma noi non hanno avvertito la famiglia Orlandi. Quel giorno lì al borgo, a Via dei Coronari, una macchina, poi dopo quando è venuta Emanuela a casa, mi ha detto, dice, mamma, dice, sai, si è fermata la macchina e una col braccio nell'interno, dice, è questa. Ma dai, dico, forse sono ragazzacci che hanno visto due o tre ragazze e vogliono fare i spiritosi. Si pensava così, mai alle cose che dovevano... Invece era proprio così. A ciascuno il suo. Nello scandalo VatiLeaks, con le rivelazioni del corvo della Santa Sede, si farà chiarezza anche sulla scomparsa di Emanuela Orlandi? Per la famiglia della ragazza romana sparita 29 anni fa, questo può essere il momento buono, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo. Da una parte ci sono infatti labili recenti tracce che aprono scenari nuovi e che sembrano portare fino a Boston. Dall'altra, la recente apertura della tomba di Renatino De Pedis, il boss della Magliana, ha escluso la presenza di Emanuela in Santa Pollinare. Eppure, la sua ex donna Sabrina Minardi ai magistrati ha assicurato: il corpo di Emanuela è stato gettato in una betoniera a Torvaianica, a Roma, e così lo aveva detto anche ai nostri microfoni. Ci conferma il fatto di aver indicato agli inquirenti il punto in cui sarebbe stato abbandonato il corpo di Emanuela Orlandi? Sì, non il punto esatto, comunque sì, gliel'ho indicato. Quindi la zona, grosso modo? Sì, la zona. Che tipo di favori Renatino De Pedis ha fatto in Vaticano? Che c'entrava Renato De Pedis col Vaticano? Forse era un benefattore della Chiesa. Un benefattore della Chiesa. Beh, però sì. Voglio dire, lui aveva un determinato ruolo preciso anche all'interno della banda. E lei racconta, ad esempio, di questi borsoni pieni di soldi che arrivavano in Vaticano e che lei stessa ha portato. Quanto spesso le capitava di portare questi soldi in Vaticano? Ma sarà successo 2 o 3 volte, comunque credo che fossero amici con queste persone del Vaticano. Lui non le aveva mai parlato dell'origine dei loro rapporti, del no. Come avesse stretto queste amicizie? No, assolutamente. Ma sa in particolare con chi? Quali fossero i suoi referenti in Vaticano? Con Marcinkus. Lei cita più volte infatti Marcinkus e dice anche di quando lei stessa aveva affidato a Monsignor Marcinkus dei borsoni pieni di soldi. Ci racconta un po' come andava, com'era anche la trafila, cioè De Pedis le dava questi soldi e a quel punto che le diceva? Portali a Marcinkus, portali in Vaticano. Marcinkus aveva una casa di fronte al Vaticano e mi diceva forza di lì. E lei cosa ricorda di Monsignor Marcinkus? Che gli piacevano le donne. La pista della criminalità italiana della Magliana può convivere con le tracce che sembrano portare fino a Boston, città di partenza di alcune lettere minatorie dell'epoca e sede anni dopo del più grande scandalo pedofilia della Chiesa, Ferdinando Imposimato, già magistrato, ora al fianco della famiglia Orlandi. Lei come valuta il fatto che, guardando ecco alle date, che coincida praticamente il momento, i giorni del rapimento di Emanuela Orlandi con il trasferimento da Roma a Boston di un importante cardinale come appunto Monsignor Law? Non so, può darsi pure che vi sia una sintonia, perché si potrebbe dire che sicuramente le due vicende sono collegate, perché dentro il Vaticano c'erano dei basisti di quelli che erano i rapitori del Vaticano, questo è fuori discussione, cioè Emanuela Orlandi non è stata rapita opera di persone che stavano fuori dal mondo, ma avevano dei basisti dentro il Vaticano, tra cui Alois Esserman, tra cui Eugen Brammertz, tra cui Hans Jakob Stelle, tra cui addirittura due persone che facevano parte dell'entourage del cardinale Casaroli. Quindi voglio dire, cioè tutte persone che non possono non aver in qualche modo dato delle informazioni sul conto di Emanuela Orlandi all'esterno, essendo sicuro che questi erano uomini della Stasi e qualche volta erano anche uomini del KGB, come per esempio i due che erano nella stanza di Casaroli, come io ho scritto senza ricevere mai una smentita, ho scritto nel libro che Irene Trollerova e Marco Torretta erano due agenti del KGB, come è stato riferito dalle autorità cecoslovacche. Quindi, cioè voglio dire, non mi meraviglia che ci possa essere questo collegamento tra la partenza per Boston di questo cardinale. Alla luce di tutto questo e mettendo in fila tutti i vari pezzetti, diciamo, e indiscrezioni e tracce ultime emerse, si rilegge anche quella trattativa e quelle informazioni che un agente dei servizi segreti, Gangi, disse alla stessa famiglia Orlandi dopo il rapimento, annunciando una imminente liberazione di Emanuela Orlandi di lì a 15 giorni. Da parte della famiglia, da parte vostra, di chi appunto come lei all'epoca indagò e ora è al fianco della famiglia, come è stata valutata, che cosa avvenne, che cosa successe? La cosa è questa: purtroppo i servizi segreti in questo caso hanno svolto una funzione come al solito di depistaggio e hanno sicuramente ingenerato la speranza di aspettative di una liberazione di Emanuela, poi alla fine non è successo nulla, ma hanno sicuramente addirittura accreditato delle piste sballate che poi sono state fuorvianti, perché all'inizio qualcuno ha parlato di fughe della ragazza con le carte di soldi, queste tutte balle. Ecco, io credo che Marcinkus ne ha fatte altre di cose illecite, tanto è vero che è stato perseguito pure da un ordine di cattura emesso dall'autorità giudiziaria di Milano, però io non sarei in grado di dire che questi fatti sono collegati. Ecco, i servizi segreti sicuramente hanno avuto un ruolo fuorviante rispetto a questa vicenda e quindi anche quel tipo di annuncio era semplicemente un depistaggio, non esatto, l'esistenza di una effettivo imminente liberazione esatto della ragazza. Sì, questo è sicuro. È vero che la ragazza non è stata liberata e hanno fatto perdere del tempo inutilmente, perché nel frattempo la ragazza è stata portata fuori. Questi elementi e anche il legame con la storia di Mirella Gregori e poi ancora tutti gli indizi che portano fino a Boston, secondo lei vanno considerati in modo alternativo rispetto al ruolo della banda della Magliana, oppure in qualche modo invece sono, diciamo, strade, piste che possono convivere? Possono convivere solo a condizione che quello che si fece chiamare per Luigi Omario, che telefonò chiamandosi per Luigi Omario, sia uno della banda della Magliana, perché non è mai stato scoperto quello che ha parlato e che ha detto io mi chiamo Pierluigi a casa di Emanuela Orlandi. Ecco, se questa persona è un uomo della Magliana, allora ci sono dei collegamenti, diversamente non è possibile vedere. Io non vedo nessun collegamento, tanto più che nella cripta di Santa Polinare non è stato trovato nessun corpo di Emanuele Orlandi, ma è stato trovato il corpo di Renatino De Pedis, e credo che la perizia che si farà non porterà alla scoperta della presenza di tracce di Emanuele Orlandi nella cripta di Santa Polinare. Allora, fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché si parla, perché se ne va a questo punto, non sta bene a casa loro. No, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo. Questa è la famosa telefonata dei sequestratori di Emanuela Orlandi, ma né a partire da qui né a partire dalle ultime indicazioni che Ali Akcha, l'attentatore di Giovanni Paolo II, affidò nel 2010 a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, si è fatta chiarezza sulla sorte della ragazza. Ascolta, questo è una occasione unica. Sono un uomo libero ormai, sarà per voi una sorpresa inaudita, ma siamo abituati a tutto. Ma è stata rapita dal governo Vaticano, ho delle prove indiscutibili soltanto per ottenere la mia liberazione. L'esecuzione del piano è stato fatto tra la CIA, servizi segreti americani, e il SISMI, servizi segreti italiani. Hanno portato via, ma il Vaticano sa tutto. Hai capito, amico mio? Fatto qualcuno per telefonisti all'americano, eccetera, sapete tutto questa storia? Io ti dico una nome, un altro caso, Emanuele, sai chi il rapimento, sai chi ha fatto il governo Vaticano, questo si chiama cardinale, lui sa. Nel groviglio di storie, quasi 30 anni dopo, su un punto tutte le parti che hanno lavorato sul caso Orlandi sembrano convergere. Bisogna considerare che anche altre ragazze erano state controllate all'epoca, come ricorda un altro magistrato che si è occupato del caso, Rosario Priore. Si sono fatti diversi tentativi per accreditare diverse piste, non questa nostrana, chiamiamola interna, con accreditare piste straniere. Ad esempio quella turca, quella bulgara, quella che ci ha portato nei posti più disparati del pianeta, perché noi abbiamo inseguito questa ragazza in Belgio, in Lussemburgo, in Turchia, addirittura in Colombia. Quindi sono state poste in essere delle manovre depistanti, io non credo sempre colpevolmente, ma a volte per farci allontanare dalla verità. C'era un elemento però ancora più preciso che riguardava la cittadinanza. Questa ragazza stranamente aveva assunto la cittadinanza vaticana soltanto 6 mesi prima dei fatti. Prima aveva la nostra cittadinanza e poi forse un qualcosa che era sfuggito anche agli inquirenti scorsi, e cioè che in quel frangente erano state prese d'occhio non solo Emanuela Orlandi, ma altre 2 ragazze, altre 2 cittadine vaticane. Quindi, a parer mio, emergeva un progetto proprio di colpire la città del Vaticano, il Vaticano e i suoi abitanti. La pista della pedofilia o un ricatto internazionale legato all'attentato al Papa, la mano della banda della Magliana o anche quella dei servizi segreti italiani e americani, quasi 30 anni dopo, quando nuovi indizi sembrano emergere nella storia di Emanuela Orlandi, le piste in realtà sembrano convivere tutte insieme e mai escludersi, ma nessuna chiarezza è stata ancora fatta ed è per questo che ora, alla vigilia del 30° anniversario e nel mezzo dello scandalo dei corvi in Vaticano, il fratello Pietro Orlandi ci dice: questo può essere il momento buono. Lui mi ha fatto una serie di nomi, la mia speranza era che tornato a Roma la magistratura mi chiamasse per sapere che cosa mi aveva detto Ali Akcha, però niente, la magistratura non mi ha chiamato, non mi hanno fatto verbalizzare nulla, sono andato anche in Vaticano a parlare con la persona che mi aveva indicato Ali Akcha, però... Cioè le ipotesi e le affermazioni che Ali Akcha le aveva affidato non sono state valutate né dai magistrati né in Vaticano. Non mi è stato proprio chiesto cosa mi avesse detto e quali nomi mi aveva fatto. Quindi la vostra richiesta in questo momento è che anche da parte della Procura di Roma, che pur adesso con l'apertura della tomba di De Pedis si è mossa, ci siano però ulteriori indagini anche di valutazione, diciamo, rispetto ad altre possibili indicazioni, comprese quelle di Ali Akcha. Sì, sicuramente, guarda, io mi auguro che comunque chiusa questa parentesi, chiamiamola così, di Santa Polinare, e ci sono tutti i risultati negativi, io mi auguro che l'indagine vada avanti. Proprio perché adesso ho visto che c'è stata questa collaborazione da parte del Vaticano, sia la massima collaborazione e soprattutto sia una collaborazione sincera, nel senso che ci sia la volontà veramente di fare chiarezza. Cioè, di recente ho sentito al Vaticano rispetto a questa indagine sull'uscita alla fuga di notizie di carte del Vaticano. Il corvo, loro, la storia del corvo. Esatto, loro, la magistratura vaticana mi sembra sia stata molto efficiente e hanno detto dobbiamo arrivare quanto prima alla verità. E qui una frase del genere da parte del Vaticano in 29 anni sulla sorte di Emanuele non l'ho mai sentita. Dobbiamo arrivare quanto prima alla verità. Secondo voi tutta la situazione attuale del Vaticano, con tutti anche le lotte intestine che ci sono dentro la Santa Sede, la storia del corvo, l'uscita di documenti riservati, può in qualche modo facilitare l'uscita anche di informazioni riguardanti il caso di Emanuela, oppure anzi rischia che questa lotta interna dentro San Pietro in qualche modo allontani ulteriormente questa ipotesi? Guarda, io... c'è stato un cambiamento da parte del Vaticano rispetto a anni fa enorme. Parlare anche 20 anni fa di documenti, chiedere pubblicamente al Vaticano la verità non era quasi inammissibile. Il fatto che adesso si può fare, credo che ci sia un cambiamento di rotta nelle coscienze anche all'interno del Vaticano, che c'è qualcuno che vuole dare un'immagine nuova, secondo me, al Vaticano e alla Chiesa in generale, dare più credibilità. Il corvo, diciamo, e tutto quello che c'è intorno può aiutarvi anche nell'avere qualche informazione sulla scomparsa di Emanuela? Più che loro, ormai, visto come stanno andando le indagini, le persone che sono state fermate, io mi auguro che più da parte del corvo ci sia da parte di qualcuno all'interno del Vaticano che sa come sono andate le cose e che ci decida a parlare. Forse è più possibile, più realistico immaginare che in questa fuga di notizie, diciamo così, gestita dai corvi vari che svolazzano sopra il Vaticano, ci possa essere un'uscita anche di documenti che abbiano a che fare con la scomparsa di Emanuela. Comunque sia, sì, in una delle ipotesi andrebbe bene, l'importante è che esca qualcosa di importante. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, www.radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche su iTunes, oppure per scriverci ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Quanto all'account di Twitter è Raf Calandra. Ciao a tutti, a sabato prossimo.